Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti e una buona giornata al nostro primo ospite del mattino, il dottor Marco Sassi, neurochirurgo, esperto in agopuntura, che ho invitato per iniziare con noi la giornata. Buongiorno dottore. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. Dottore, sa che i miei inviti non sono mai disinteressati e infatti io oggi la chiamo perché abbiamo bisogno che lei ci dia una mano a gestire le sette sorelle. E quando parlo di sette sorelle con un neurochirurgo, sicuramente lei sa a che cosa mi riferisco. Alle vertebre della colonna cervicale. Sì, ci danno spesso tanti problemi, dolore al collo, mal di testa da cervicale, insomma questo tratto è incolpato, a ragione o torto, questo ce lo dirà lei, di una serie di problemi. Dottor Sassi, ci aiuti a capire perché le sette sorelle sembrano così delicate? Ma ecco, in realtà io non... spezzo immediatamente una lancia a favore, nel senso che più che sette sorelle le definirei sette guerriere. Se si lamentano c'è effettivamente un motivo. Le vertebre cervicali sono una struttura particolarmente degna di nota perché hanno delle capacità rigenerative molto importanti, guariscono molto velocemente e sono abituate a lavorare molto continuativamente e molto forte. In altri termini, se si lamentano, hanno proprio motivo di lamentarsi, non lo fanno diciamo per divertimento. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che se questo avviene, cioè se avvertiamo un dolore al collo, il più delle volte siamo noi che stiamo chiedendo troppo o stiamo chiedendo malamente al nostro collo. Spesso e volentieri mi viene chiesto che cosa bisogna fare se mi sveglio con un collo che mi fa male o che... Più che degli esercizi, bisognerebbe, se ci svegliamo con il collo che ci fa male, chiederci che cosa abbiamo fatto per determinare questo dolore nella giornata precedente. In altri termini... Ecco, allora dottore, ci aiuti un po', ci impresti il suo occhio clinico. Andiamo indietro, pensiamo a ieri. Quali sono state le situazioni, le occasioni, le disattenzioni, gli sforzi, gli stressor che hanno in qualche modo potuto mettere in difficoltà la nostra cervicale? Senza voler scendere per forza nelle cose che un po' tutti conosciamo, tipo guidare con il finestrino aperto, dobbiamo ricordarci che stare per lungo tempo davanti al computer, la postura che assumiamo alla scrivania, una colonna lombare, sembra strano parlare di qualcosa che ha a che vedere con il collo e magari con il mal di testa, tra virgolette, da cervicale e tirare fuori, tirare in ballo ancora una volta la colonna lombare, ma spesso e volentieri le vertebre cervicali, o meglio la cervicale intesa nel suo complesso, quindi con i muscoli e tutto il resto, ci fa male perché è chiamata a bilanciare una schiena che lavora storta. Allora spesso noi davanti alla scrivania stiamo tutti ingobbiti, in realtà il problema parte dalla nostra colonna lombare che ha magari delle vertebre danneggiate, il risultato finale è il collo tira per tirare dritta la testa, ricordiamoci che la testa è un importante contrappeso nel nostro corpo, e il risultato finale è o male ai trapezi, che sono poi quel muscoletto che si sente appena sopra la spalla, tra la spalla e il collo per intenderci. Allora certo che c'entra la cervicale, cioè alla lunga questa poi determina artrosi, determina dei segni di usura sulla nostra colonna cervicale, però il più delle volte è una postura scorretta sul luogo di lavoro, è se abbiamo guidato a lungo una posizione scorretta del sedile che è troppo sdraiato e non abbastanza in verticale. Ricordiamoci che è importante che sostanzialmente noi, tenendoci bene in verticale, sia con lo schienale della sedia d'ufficio sia con lo schienale dell'automobile, aiutiamo il collo raddrizzando bene le vertebre in basso, quelle lombari, e di conseguenza facendo lavorare di meno le vertebre cervicali. E allora spesso noi abbiamo un mal di testa la cosiddetta cefalea muscolotensiva, ben nota, più o meno la conoscono tutti, la tensione della muscolatura del collo o della nuca, la riferiamo come cefalea, non è una vera e propria cefalea, o meglio, è un dolore riferito alla testa, quindi in definitiva sì, è una cefalea, ma è una cefalea muscolare legata al fatto che le mie vertebre cervicali, i miei muscoli cervicali hanno lavorato male e adesso sono contratti. Esatto, mi presentano un po' il conto, ma dottor Sassi, sì. Quando è il caso di rivolgersi a un medico? Ci sono dei campanelli d'allarme? Un dolore sì. Che cambia? È una cosa che io spiego spesso e volentieri, nel senso che è anche piuttosto facile da comprendere, anche per un non medico. Ebbene, è chiaro che se io ho un dolore molto molto forte al collo, diverso dal solito, allora sì, già un semplice dolore al collo più forte del solito mi deve far pensare vado a farmi vedere. Ma la regola fondamentale che mi piacerebbe che passasse è se oltre al collo comincio ad avvertire dolori al braccio, alla mano, formicolio, intorpidimenti, una mano mi diventa meno forte dell'altra. In altri termini, se ho dei segni che fanno pensare che oltre alle vertebre e ai muscoli sono coinvolti i nervi che escono dal collo e arrivano fino alla mano e al braccio, allora sì, lì sicuramente vale la pena di sentire un neurochirurgo. Adesso io mi occupo proprio di colonna cervicale da lunga data, per cui questo è proprio un po' il mio pane quotidiano, però indipendentemente da questo comunque vale la pena di sentire un parere specialistico che possa escludere che ci sia un coinvolgimento importante a livello dei nervi che escono dal collo e vanno al braccio. In quali casi è necessario l'intervento, dottore? Ma è chiaro che a quel punto verranno fatti gli accertamenti del caso, la risonanza magnetica, l'elettromiografia, eccetera, eccetera. È chiaro però che l'intervento alla colonna cervicale, io per esempio svolgo interventi di microchirurgia, quindi che sono ben tollerabili, ma vanno tenuti extrema ratio, cioè come ultima ipotesi di trattamento, spiaggia. Se io vedo che effettivamente il paziente sta danneggiando il proprio nervo e si rischia quindi un danneggiamento irrecuperabile. Altrimenti io per primo consiglio e cerco di evitare l'intervento con altri trattamenti che hanno una dimostrazione scientifica di efficacia, come per esempio l'agopuntura o l'ozonoterapia, cioè trattamenti con un'invasività molto limitata, ma che permettono, proprio andando a lavorare su quei tendini, su quei muscoli che sono sovraccaricati, ripeto, da un'attività il più delle volte cronica, da una postura scorretta, da una posizione scorretta in macchina, piuttosto che da una borsetta pesante monospalla che mi sbilancia la posizione della colonna. Dicevo quindi in questi casi serve magari l'intervento dello specialista ma non l'intervento chirurgico, un trattamento meno aggressivo ma che comunque abbia un'efficacia terapeutica dimostrata. Dottore, lei è infatti un medico agopuntore, l'effetto antalgico degli aghi è noto, ma mi sembra di capire che con delle sedute di agopuntura si va oltre il dolore, non solo si diminuisce, si spegne il dolore, ma in qualche modo si curano anche queste tensioni dolorose, è corretto? È giustissimo, questa è un'osservazione intelligente, cioè il concetto è proprio questo, non dimentichiamoci che quella colonna cervicale non è isolata, è all'interno di una persona ed è abbastanza evidente, tutti quanti lo abbiamo visto, come delle tensioni anche lavorative, dello stress, psicologiche, alla fine vadano ad accumularsi proprio lì sul collo, no? Mi viene in mente Atlante che sorregge il peso del mondo sulle proprie spalle, qui è praticamente la stessa cosa, spesso e volentieri noi trasportiamo sul collo le spalle, le tensioni magari psicologiche, che diventano tensioni muscolari. Allora, in ultima analisi, abbiamo forse fatto una definizione di quelli che sono i motivi causanti un dolore a quelle che prima chiamavamo le sette sorelle, cioè non c'entrano tanto le vertebre che loro lavorano e sono, come dicevo io, delle soldatesse, c'entra una muscolatura contratta tanto per una postura scorretta, tanto per degli sforzi asimmetrici, ma tanto anche per una pressione psicologica, uno stress psicologico, una contrattura che è fisica ma anche psichica evidentemente a questo punto. Dottor Sassi, un'ultima domanda, lei ha parlato anche di ozonoterapia, come funziona e che risultati possiamo aspettarci? Allora, ci sono degli interessanti sviluppi da un punto di vista scientifico sullo studio, sul meccanismo dell'ozonoterapia. In linea di massima però lo potremmo riassumere così. Quello che stiamo facendo con l'ozonoterapia è essenzialmente dare una boccata d'aria fresca ai tessuti. Quindi è chiaro che se io ho un muscolo bloccato, contratto, in debito d'ossigeno perché ha lavorato durante tutto il giorno precedente, quello che dicevamo, chiediamoci cosa abbiamo fatto il giorno prima, l'ozonoterapia è come se convincesse i globuli rossi a cedere più ossigeno al muscolo, dandogli maggiore energia, dandogli maggiore capacità di sbloccarsi, di riprendere la sua funzionalità normale, diciamo così, naturale. Quindi, spiegato in soldoni, più o meno il meccanismo è questo, ecco. Mi sembra che lei ce l'abbia spiegato in modo molto chiaro. Io la ringrazio per essere stato con noi, le auguro una buona giornata e spero di risentirla prestissimo. Grazie. Volentieri, buona giornata. C'è in regia con noi Carmelo Lauricella, che ringrazio, in assistenza Guido Scotti, come sempre in redazione Laura Vanossi. Io vi aspetto, come ogni giorno, dopo il GR delle 12 per le notizie che arrivano dal mondo della ricerca. Buonissima giornata da Nicoletta.